Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Buone notizie per chi soffre di artrosi alle ginocchia. Restate con me per saperne di più, perché oggi in linea con noi c'è il professor Pietro Avandelli, direttore della clinica ortopedica al Gaetano Pini, CTO di Milano e ordinario all'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e grazie per l'invito. Grazie a lei, professore. Allora, teniamole da conto, ma nel caso fosse necessario, oggi è possibile sostituire, per così dire, un ginocchio malandato con un ginocchio nuovo e su misura, perché nel campo delle protesi si assiste ad una vera e propria rivoluzione e il nostro paese in questo campo è all'avanguardia. Professore, ci racconti? Sì, allora diciamo che il concetto è quello di riprodurre perfettamente quella che è l'anatomia di un ginocchio, cioè ognuno di noi ha delle differenze a livello fisico e quello che è stato fatto con le protesi tradizionali è stato quello di fare una serie di misure fisse, 10 misure, nella realtà per coprire un numero infinito invece di varietà anatomiche di ginocchia. Un'azienda americana 10 anni fa ha messo a punto un software per cui da un esame TAC ad alta definizione riesce a produrre la protesi di misure precisissime adatta solo a quello specifico ginocchio. Quindi, professore, è un ginocchio proprio un modello unico? Sì, è come se noi avessimo un piede del 38,2. Non è 38 e non è 38 e mezzo e abbiamo una scarpa su misura perfetta. Questo permette al paziente di tornare ad avere il ginocchio di quando aveva 30 anni. Professore, quali sono i candidati elegibili a questo tipo di intervento? Certo, i candidati elegibili sono persone che hanno un'artrosi sintomatica che non è regredita con i trattamenti farmacologici, conservativi, infiltrativi, i quali non hanno deformità notevoli, cioè persone che comunque riescono a camminare, cioè non è per il paziente che arriva con delle deformità mostruose, magari in seggiola a rotelle. Professore, i vantaggi di questa protesi su misura cambia tutto. Poi io anticipavo, l'Italia in questo campo è all'avanguardia in Europa. Direi che in Europa abbiamo atteso che i risultati di queste protesi americane fossero validati dalla letteratura, perché le aspettative erano molte, però è ovvio, era anche qualcosa di sperimentale. Gli americani hanno lavorato molto bene, in circa 10 anni hanno mostrato i primi risultati clinici e questi risultati mostrano che i pazienti hanno un ginocchio naturale nel 90% dei casi, rispetto alle protesi tradizionali dove la sensazione di avere un ginocchio, diciamo, naturale è il 75% dei casi. Quindi il miglioramento è stato notevole. A quel punto in Europa alcune nazioni hanno iniziato ad applicare queste protesi, gli inglesi, i tedeschi e poi l'Italia. Pensiamo solo ai nostri colleghi di oltre confine, i francesi, che hanno un'ottima scuola di chirurghi di ginocchio, non hanno questa tecnologia disponibile. In Italia abbiamo anche il grosso vantaggio, che parlo per il mio ospedale e la mia regione, però in regione Lombardia, nella ASST Pini CTO, possiamo impiantare queste protesi col Servizio Sanitario Nazionale, quindi al cittadino non costa nulla. Professore, ma come fate a capire, a scegliere se impiantare una protesi, io metto quelle tradizionali rispetto a queste su misura, è il profilo del paziente, da che cosa dipende la scelta? L'età? Beh, sicuramente il profilo del paziente ha una caratteristica sicuramente peculiare e importante, perché dicevamo prima, se uno ha una deviazione assiale molto importante, quelle ginocchia stortissime, beh, allora non è per questo impianto, dobbiamo usare degli impianti da ricostruzione con dei fittoni, impianti molto più importanti, e questa è una prima caratteristica. La seconda è che il dolore, la sintomatologia legata all'artrosi del paziente possano permettere a questo paziente di andare avanti qualche mese, perché il processo dall'esame TAC che viene inviato in Nord America, gli ingegneri nordamericani lavorano per disegnare questa protesi, poi questa viene prodotta in pressofusione, viene prodotto lo strumentario, passano diversi mesi e quindi se il paziente arriva e ha un dolore insostenibile, è ovvio certo. che abbiamo uno shortcut, una sorta di scorciatoia verso gli impianti tradizionali. Se invece può professore, ma di come tempo di ripresa e il tempo anche della riabilitazione è identico a quello della protesi normale oppure si torna prima in gamba con questa protesi su misura? Allora, da un punto di vista pratico, quello che noi sappiamo oggi è che abbiamo già dei protocolli accelerati. È ovvio, la protesi di ginocchio è un intervento abbastanza doloroso nei primi giorni, quindi ci siamo dati da fare con gli anestesisti, con i fisioterapisti per tentare di ridurre questo dolore postoperatorio e riabilitare tutti prima. Ma concettualmente la protesi su misura, essendo così precisa a livello dell'anatomia del ginocchio, è ovvio che permette una riabilitazione che può essere più efficace e magari possiamo accorciare e guadagnare qualche giorno. Questo direi assolutamente di sì. Professore, abbiamo parlato di protesi, ma che cosa, prima di arrivare alla protesi, che cosa può fare il paziente dal punto di vista farmacologico, ma anche biotecnologico? Insomma, qual è l'ultima frontiera della terapia conservativa? Allora, da un punto di vista di quella che è la terapia farmacologica, abbiamo dei farmaci collaudati che funzionano molto bene, che sono gli antinfiammatori non steroidei, e questi devono essere utilizzati dai pazienti. Il paziente non deve pensare che l'antinfiammatorio sia il veleno. Molti arrivano e dicono: no, io la bustina di antinfiammatorio non la prendo assolutamente, sono contro i farmaci. In realtà gli antinfiammatori possono ridurre la sintomatologia e permettere al paziente di andare avanti a lungo. Ci sono poi farmaci cosiddetti condroprotettori, cioè farmaci che permettono alla cartilagine residua di funzionare, di sopravvivere un pochino meglio, e quindi questi farmaci sono a base di collagene, condroitinsolfato, sono tutti una serie di farmaci ben noti agli ortopedici, e quindi il vostro ortopedico, l'ortopedico potrà consigliarlo. E poi abbiamo le terapie infiltrative, che sono estremamente efficaci. Abbiamo l'acido ialuronico, che è un componente della matrice extracellulare della cartilagine, possiamo assimilarlo a una sorta di liquido lubrificante dell'articolazione. Poi possiamo utilizzare il plasma ricco di piastrine, cioè al paziente viene aspirato del sangue, si concentra e da questo concentrato si estraggono dagli alfagranuli delle piastrine questi fattori di crescita, che sono dei mediatori che possono ridurre l'infiammazione, possono migliorare il metabolismo dell'articolazione. Possiamo associare le due cose insieme, e l'ultima terapia, che però non è assolutamente validata scientificamente, è quella di prelevare del grasso cutaneo facendo una liposuzione, concentrare questo grasso cutaneo, estrarre dei cluster che contengono delle cellule mesenchimali e infiltrarli nel ginocchio. Ora, mentre per l'acido ialuronico e il PRP abbiamo in letteratura una consistenza, quindi sono effettivamente efficaci, per diciamo le staminali da grasso, qui assolutamente siamo in un campo sperimentale, quindi al momento non devono essere consigliate ai pazienti. Professore, quando è bene iniziare a fare queste terapie? Avverto dolore? Tante persone, un po' come lei faceva riferimento ai farmaci, non prendo i farmaci, resisto perché non voglio prendere farmaci, quindi mi tengo il dolore. Così come l'idea di affidarsi a fare delle infiltrazioni, trovo una certa resistenza da parte di coloro che dicono: beh, se inizio adesso, poi... Qui il concetto è, da una parte, fare una diagnosi precoce e precisa. Cioè i dolori di un'articolazione come il ginocchio possono venire da più cose, non solo da problemi cartilaginei, ma da problemi meniscali, problemi sinoviali di tipo artritico, sì. E quindi dobbiamo fare una diagnosi precoce. Una volta che la diagnosi è quella di artrosi, il trattamento orale con gli antinfiammatori può essere iniziato da subito, e consiglio subito i condroprotettori. Se la situazione si riduce come sintomi, allora abbiamo fatto bingo, possiamo temporeggiare e rimandiamo le infiltrazioni a quando il ginocchio tornerà a essere sintomatico. Se invece antinfiammatori controprotettori non fanno niente, passiamo alle infiltrazioni con l'acido ialuronico. Diverso il discorso per la protesi. Quando fare una protesi e essere sottoposti a una protesi? il discorso qui è sulla qualità della vita del paziente, quindi non c'è mai urgenza di essere operati per una protesi. Si opta per una protesi quando la mia qualità della vita è condizionata da quell'articolazione, quel ginocchio, quell'anca, quella spalla, e mi cambiano la qualità della vita, sono un dolore costante, e allora a quel punto oggi c'è la chirurgia protesica che dà degli ottimi risultati. Professore, ma grazie per essere stato con noi di primo mattino, per averci portato anche queste buone notizie. Grazie Nicoletta, è stato un grande piacere. La aspettiamo anche per una puntata video, con piacere, intanto le auguro una buonissima giornata. Buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24, grazie. In regia ringrazio Carmelo Lauricella, in assistenza e in redazione Laura Vanossi. Come sempre vi do appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e vi auguro una buonissima giornata. Un saluto da Nicoletta.